Queste idee, tendenti le une a diminuire, le altre ad aumentare il mio rimpianto di non esser portato alla letteratura, non si presentarono mai al mio pensiero nei lunghi anni durante i quali avevo completamente rinunciato al progetto di scrivere e che passai in una casa di cura lontano da Parigi fino al momento in cui questa, all'inizio del 1916, non riuscì più a trovare personale medico. Tornai allora in una Parigi ben diversa da quella dove ero già tornato una prima volta, come si vedrà fra poco, nell'agosto del 1914, per una visita medica, dopo la quale avevo raggiunto la mia casa di cura. Poche sere dopo il mio nuovo ritorno, nel 1916, avendo voglia di sentir parlare della sola cosa che allora mi interessasse, la guerra, uscii dopo pranzo per andare a trovare Madame Verdurin, che era, con Madame Bontemps, una delle regine di quella Parigi di guerra che faceva pensare al direttorio. Come per disseminazione d'una piccola quantità di lievito, in una sorta di apparente germinazione spontanea, giovani donne andavano in giro tutto il giorno acconciate con alti turbanti cilindrici come altrettante contemporanee di Madame Taillon, per civismo, con tuniche all'egiziana dritte, scure, molto belliche, su gonne molto corte. Calzavano strisce di cuoio che ricordavano il coturno secondo Talma, oppure alte ghette che ricordavano quelle dei nostri cari combattenti. Era, a sentir loro, perché non dimenticavano di doverne rallegrare gli occhi che s'agghindavano non soltanto di abiti morbidi, ma anche di gioielli che evocavano l'esercito nei motivi decorativi, se non era la loro stessa materia a venire dall'esercito, ad esservi stata lavorata. Erano, in luogo d'ornamenti egiziani, richiamanti la campagna d'Egitto, anelli o braccialetti fatti con schegge di granate o pezzi di cartucciere da 75, accendini costruiti con monete inglesi da 2 soldi cui un soldato era riuscito a dare, nel suo rifugio, una patina così bella che il profilo della regina Vittoria sembrava tracciato dal pisanello. Era, ancora, perché ci pensavano incessantemente, così dicevano, che quando uno dei loro cadeva ne portavano stento il lutto, col pretesto che esso era intriso di fierezza, il che consentiva un berretto di crepe inglese bianco, del più grazioso effetto e tale da autorizzare ogni speranza dell'invincibile certezza del trionfo definitivo, di sostituire il cashmere d'una volta con il raso e la mussola di seta e persino di non abbandonare le perle nella piena osservanza del tatto e della correttezza che è inutile ricordare alle francesi. Il Louvre, tutti i musei erano chiusi e quando l'intestazione di un articolo di giornale diceva «una mostra sensazionale», si poteva essere certi che si trattava di una mostra non di quadri, bensì di vestiti, vestiti destinati d'altronde alle delicate gioie d'arte da troppo tempo sottratte alle parigine. Eleganza e piacere, così, erano rispuntati. E l'eleganza cercava, in mancanza dell'arte, di giustificarsi come questa aveva fatto nel 1793, quando gli artisti che avevano esposto al Salon rivoluzionario proclamavano che avrebbero torto gli austeri repubblicani a giudicare strano che noi ci occupiamo d'arte mentre l'Europa coalizzata assedia il territorio della libertà. Lo stesso facevano nel 1916 i sarti, che peraltro, con orgogliosa coscienza d'artisti, spiegavano che cercare il nuovo, rifuggire dalla banalità, affermare uno stile, preparare la vittoria, dar vita per le generazioni del dopoguerra a una nuova formula del bello. Tale era l'ambizione da cui erano travagliati, la chimera che inseguivano, come si poteva constatare visitando le loro sale d'esposizione deliziosamente allestite in Rue de la, dove la parola d'ordine sembra essere quella di cancellare con una nota luminosa e gaia le grevi tristezze dell'ora, ben inteso con tutta la discrezione imposta dalle circostanze. È vero che le tristezze dell'ora potrebbero aver ragione delle energie femminili se non avessimo tanti e così alti esempi di coraggio e di resistenza su cui meditare. Così, pensando ai nostri combattenti, che in fondo alla loro trincea sognano maggiori agi e più cose graziose per la cara assente lasciata accanto al focolare, non tralasceremo una sempre più attiva ricerca per la creazione di modelli che rispondano alle necessità del momento. Sulla cresta dell'onda, va da sé, sono soprattutto le case inglesi, dunque alleate, e quest'anno si impazzisce per gli abiti a botticella, la cui simpatica trascuratezza dà a tutte noi un piccolo, divertente tocco di rara distinzione. Una delle più felici conseguenze di questa triste guerra sarà, anzi, aggiungeva il garbato cronista, e uno sospettava, la riconquista delle province perdute, il risveglio del sentimento nazionale. Una delle più felici conseguenze di questa guerra sarà anzi d'aver ottenuto nel campo della moda buoni risultati senza un lusso sconsiderato di cattivo gusto, con molto poco, d'aver creato con niente tante cose graziose. All'abito del grande sarto edito in più esemplari si preferiscono in questo momento gli abiti fatti in casa, in quanto affermazione dell'intelligenza, del gusto e delle tendenze individuali di ciascuno. Quanto alle opere di carità, pensando a tutte le miserie nate dall'invasione, a tanti mutilati, era affatto naturale che dovessero diventare ancora più ingegnose, il che costringeva a trascorrere l'ultima parte del pomeriggio ai tè, al tavolo del bridge, commentando le ultime dal fronte, mentre davanti alla porta erano attese le dame dall'alto turbante, dalle loro automobili, sul cui sedile c'era un bel militare che chiacchierava col portiere. D'altronde, ad esser nuove, non erano solo le acconciature che sovrastavano le facce con il loro strano cilindro, lo erano anche le facce. Quelle dame dai nuovi cappelli erano giovani donne venute non si sapeva bene da dove e che rappresentavano il fiore dell'eleganza, quale da 6 mesi, quale da 2 anni, quale da 4. Tali differenze erano per loro tanto importanti quanto ai tempi in cui io avevo debuttato nel gran mondo. 3 o 4 secoli di provata antichità fra 2 famiglie come i Germain e i La Rochefoucauld. La dama che conosceva i Germain dal 1914 guardava come una parvenue quella che veniva presentata in casa loro nel 1916. Le faceva un cenno di saluto da madre nobile, la squadrava attraverso l'occhialetto e confessava con una smorfia di non essere affatto sicura che fosse sposata. «Tutto ciò è piuttosto nauseabondo», concludeva la dama del 1914, la quale avrebbe voluto che il ciclo delle nuove ammissioni si fosse chiuso con lei. Queste persone nuove, che i giovani trovavano molto antiche, e che a certi vecchi, che non avevano frequentato solo il gran mondo, non sembravano poi così nuove, non soltanto offrivano alla società i convenienti svaghi di conversazione politica e di musica nell'intimità, bisognava anche che fossero loro ad offrirli, giacché per far sembrare nuove le cose, anche se sono vecchie, e persino se sono nuove, occorrono, nell'arte come nella medicina o nella mondanità, dei nomi nuovi. Costoro, d'altronde, erano nuovi in certe cose. Madame Verdurin, per esempio, era andata a Venezia durante la guerra, ma non diversamente da chi vuole evitare discorsi dolorosi e sentimentali. Quando diceva che era stupefacente, oggetto della sua ammirazione non erano né Venezia né San Marco né i palazzi. Tutto ciò che m'era tanto piaciuto e che lei teneva in poco conto, ma l'effetto dei proiettori nel cielo, proiettori sui quali forniva informazioni suffragate da numeri. Così, d'epoca in epoca, come reazione all'arte ammirata fino a quel momento, rinasce un certo realismo. Il salotto Saint-Hubert era un'insegna ormai sbiadita sotto la quale la presenza dei più grandi artisti, dei ministri più influenti, non avrebbe attirato nessuno. Si accorreva invece per ascoltare una frase pronunciata dal segretario di quelli o dal sottocapo di gabinetto di questi, nei salotti delle nuove dame inturbantate, il cui stuolo alato e gracchiante invadeva Parigi. Le dame del primo direttorio avevano una regina che era giovane e bella e si chiamava Madame Taillon. Quelle del secondo ne avevano due che erano vecchie e brutte e si chiamavano Madame Verdurin e Madame Bontemps. Chi avrebbe potuto avercela con Madame Bontemps perché suo marito aveva svolto un ruolo aspramente criticato dalle Echo de Paris nell'affare Dreyfus? Dato che la Camera intera a un certo punto era diventata revisionista, era stato gioco forza reclutare fra gli ex revisionisti, come fra gli ex socialisti, il partito dell'ordine sociale, della tolleranza religiosa, della preparazione militare. Un tempo il signor Bontemps sarebbe stato oggetto di riprovazione perché gli antipatrioti, allora, si chiamavano Dreyfusisti. Ma questo termine era stato ben presto dimenticato e sostituito da quello di avversario della legge dei tre anni. Il signor Bontemps era uno degli autori di questa legge ed era dunque, invece, un patriota. In società, e questo fenomeno sociale non è d'altronde che l'applicazione di una legge psicologica ben più generale, le novità, colpevoli o no, ispirano orrore solo finché non sono assimilate e circondate da elementi rassicuranti. Era così per il Dreyfusismo come per il matrimonio di Saint-Luc con la figlia di Odette, matrimonio che all'inizio aveva fatto scandalo. Adesso che dai Saint-Luc si vedevano tutte le persone di conoscenza, quando anche Gilbert avesse avuto gli stessi costumi di Odette, non si sarebbe smesso di andarci e si sarebbero approvate le sue reprimende da madre nobile contro le novità morali non assimilate. Il Dreyfusismo adesso era integrato in una serie di cose rispettabili e abituali.